shoot. E sa që zuri kele ka qepi se gjë visut. A vite nuk gjok është por ke dasu bëtë me pjashut. Asra dhe ta juta kreshe dhe peqo që gja pashut. Lega më poku sa mu si ke vënut. A vite furnut dhe parla se në kua, kuara kua e kua tjera. Shka sa do ka të sëpare ku fashitë për më stjera. Nuk sëfa me progres, asore se ma stes. Se depres, se regres, sëfa në projes. Le parolo vosë sa bide gënë faqë. Në faqë ka të pojes, se van ka nanë së lo stes. Ja më fashin ma mbres, o li shmo këse më bëgju shpes. Shpesore, asa që la mare, po në gulushë veramente u sabore. Atempe pace me gli gate fai, atempe guerra fra non se sa mai. Fate indette nelle strette l'amica, ya diventa nemica. Tutti che spedite che sai, si nu parla come ci ne vai. Si nu tarli e ti scava sta fossa, fratelli e fronute famosa. Veste came ti aspetti sta scossa, il mio capo ti spezzi nell'ossa. Rimango composto inibito, zitto palle tappato che accetti l'invito. Vieni con noi e cosa resta? Generazioni andate, persone troppo stanche, affrante di sestate, con vite disastrate, la vita nelle strade, visioni contrastate, parlate non pensate, vi lamentate e giudicate, mentalità perfetta per il posto e ci restate. L'ho detto, questa merda non paga. Il mio flow come un proiettile appena sparato in strada. Ricalibro la calibro, riparte sta rapata. Tu per me spiro ridicolo, pallotto la spuntata. Giungla nel sottosuolo, underground la mia morsa. Tu da me sarai tramonto in pieno come un treno in corsa. S.A. sopra il beat, spara palla questo trick. La bandana maschera il mio volto finché non ho il mic. Ogni sera è dramma, tramposto all'obitorio. Ma figlio di puttana, sempre fino a che non muoio. Di merda, bastarda, frate, caccio il repertorio. Mentre bombolette in mano sto marchiando il territorio. Siamo a posto con la mia banda quando parte questo sound. Spacco ciò che trovo avanti, blow, make it loud. Sfidami se ti riesci, tanto vai knockout. I'm a street on the beach now, go break it out. Yeah, yeah, yeah, yeah.